Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a... Bentornati a Per fare il branco ci vuole un lupo. Ecco, buongiorno da me. Mi ero preparata a bentornati. Ah, ok. Vabbè, buongiorno da me Andrea. E da me Morena. Ecco, no, questo è il primo appuntamento dopo le vacanze di Natale, Capodanno, Epifania, che tutte le feste si porta via. Vi siamo mancati? Silenzio, non so perché mi è venuto male comunque. No, cavolo, sì, tutti ci sarà ovviamente, vabbè. Standing ovation. Comunque sì, ormai siamo già quasi a Carnevale, però insomma... A Ferragosto no, però a Carnevale quasi un po' ci avviciniamo. Va bene, detto questo, quindi i nostri soliti saluti, diciamo, un po' unconventional, come si dice, direi che possiamo cominciare a parlare di un argomento molto importante, che tu conoscerai a menadito. Siamo pronti e scoppiettanti! Quindi? No, vi spiego... No. Ovviamente voi ascoltate un podcast, in realtà dietro le quinte c'è tutto un lavoro dietro molto importante, la schedulazione degli appuntamenti, capire di cosa parlare, eccetera, eccetera. Ovviamente non è assolutamente vero, nel senso noi andiamo molto a braccio e ci piace così. Allo stesso tempo abbiamo, prima di iniziare la registrazione di questo podcast post natalizio e il primo del 2017, parlando di un sacco di cose, in realtà non siamo venuti a capo di niente, inteso, vogliamo parlare di un sacco di cose, abbiamo parlato il cane, non il cane, il branco, cose più allegre, tipo le 5 libertà animali, eccetera, eccetera, cose più tristi, tipo l'uccisione di alcuni lupi, questo sacco di roba, e alla fine abbiamo deciso di parlare di... Le 5 libertà. Ok. Va bene. Mi sono riconnessa. Sì, abbiamo deciso di parlare delle 5 libertà. Ora, come sapete, noi facciamo un lavoro di branco ben specifico. Ci tengo a sottolineare che quello di cui vi abbiamo citato, vi abbiamo raccontato fino ad oggi, riguarda una semplificazione del branco dal punto di vista umano. Quindi abbiamo semplificato e determinato con delle linee guida quelle che potrebbero essere ovviamente i ruoli all'interno del branco stesso. Considerate che il branco di lupi, quello selvatico, che è ben diverso da quello invece diciamo che vive in cattività, che è stato creato dalla cattività, sono ovviamente, hanno dei gruppi un po' diversi. Il branco selvaggio vive appunto in un branco, come già appunto sapete se ci avete seguito, in quale noi abbiamo sintetizzato una sorta di varia tipologia di ruoli, quindi alfa, beta, delta, gamma e omega. Questo che serve, abbiamo già visto. Che abbiamo già visto. Questo è sempre per semplificare anche dal punto di vista umano, quindi capire l'umano, se fosse in un eventuale branco, che tipo di lupo potrebbe essere, quindi che energia manifestare. Ovviamente, come sapete, io, Andrea, nasco come dog e canine trainer, mentre tu... Io nasco... sì. Io nasco, che mi sembra già una buona informazione, va come falconiere. Prima ho fatto per alcuni anni, sono stata unità cinofila da soccorso, comunque falconiere. Sì, ecco, bravo, citiamo il falconiere perché sull'unità cinofila ci tengo ad avere una famiglia, quindi... Ce ne sarebbe da raccontare che la metà basta. Non comunque... voglio essere ragazza madre di 5 cuccioli. Esatto. Tra l'altro vi aggiorniamo sui cuccioli, i cuccioli ormai sono cresciuti, sono diventati dei piccoli giganti, il più piccolo pesa 9 kg, il più grande è arrivato a 12 e passa. E per i 2 mesi e mezzo non è male. Devo dire se non sono male, una cucciolotta è già stata adottata, gli altri due sono in fase di adozione, nel senso a breve verranno a prendere, diciamo... e iniziare la loro vita con i nuovi loro custodi, quindi molto bene, insomma, era... Molte emozioni. Ci sembrava carino raccontarvi questa cosa. Tutte le volte che esce un cucciolo, nel senso, ad esempio, adesso Siu, che è stata adottata da Milla, io sono molto felice, ovviamente, perché i custodi che abbiamo trovato per loro sono persone assolutamente speciali, assolutamente stupende. Allo stesso tempo, una piccola parte di me, avendoli tenuti in mano proprio fin dal loro primo istante di vita su questa terra, è lì che dice: oddio, un cucciolo se ne va, la sindrome del nido vuoto. vabbè, con diciamo... Andrea che mi guarda e dice: sì, vai, una pipì in meno da raccogliere. Sì, diciamo che io sono, chiaramente mi dispiace, a parte che noi due ce ne terremo due, che se ne vanno gli altri, ovviamente dispiace, allo stesso tempo sono contento che iniziano la loro vita con... Ma anch'io assolutamente, è una cosa assolutamente irrazionale il fatto di vedermi andare. Va bene, parlando invece del branco, tornando al discorso del branco, parliamo delle 5 libertà. Cosa c'entrano le 5 libertà col branco? Allora, c'entrano perché in realtà... come sapete, noi abbiamo parlato del branco di lupi, in realtà c'è una notevole differenza tra il branco di lupi, ovviamente, e quello che invece è il cane, quindi diciamo il gruppo sociale del cane stesso. Il cane, come sapete, o forse se non lo sapete ve lo diciamo noi, è stato selezionato appositamente per diventare l'animale domestico. Il cane in natura non esiste. Quindi riportare un concetto naturale è impossibile, perché il cane in natura non esiste proprio. Allo stesso tempo, noi esseri umani decidiamo talvolta di condividere la nostra vita, la nostra esistenza con degli animali. Quindi in realtà questo tipo di discorso equivale e va bene sia per chi possiede cani, sia per chi possiede rapaci, sia per chi possiede tigri, piuttosto che giraffe, piuttosto che qualunque altro tipo di animale, insomma. Per chi ha deciso di condividere la sua vita con un altro essere vivente. Esatto, con un'altra specie, diciamo così. Ma diciamo che le 5 libertà si possono adattare bene in ogni caso. Sì, andrebbero bene anche per esseri umani, Cioè, ahimè, talvolta non sono rispettate neanche per gli esseri umani. No, infatti, quindi ci potrebbe stare persino per gli esseri umani stessi. Allora, parliamo quindi delle 5 libertà. Le 5 libertà sono le uniche regole che noi mettiamo fisse per tutti coloro che si avvicinano al nostro mondo, sia che vogliono diventare falconiere, educatore, custode consapevole, qualunque tipo di lavoro, in sostanza, che noi facciamo. La prima libertà, quindi, parliamo della prima libertà, che vi anticipo già, la prima e la seconda e la terza, tendenzialmente vengono garantite un po' da tutti, se vogliamo. C'è difficile trovare un proprietario che non garantisca una cosa del genere. Ma, vabbè. Sì, nel senso, vabbè, parliamo di proprietari con un minimo di coscienza. Con un minimo di coscienza, no, sì, decisamente. Allora, prima libertà è? Libertà dalla sete e dalla fame. Sarà? Va bene, una citazione della Coppa Cobra, che magari qualcuno... Andrea, lo sai. Va bene, la prima libertà è libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione. Parolone, insomma. Vabbè, dalla fame e dalla sete ovviamente prevede il fatto che, poi a seconda della tipologia di animale, comunque sia il cane in questo caso, o qualunque tipo di animale, abbia facile accesso all'acqua, al cibo e fin qua tutto bene, e una piccola digressione sulla cattiva nutrizione, insomma. Beh, diciamo che in quest'epoca di fast food sulla cattiva nutrizione ce n'è da dire. Sì, sì, adesso, vabbè, però nel senso, capiamo meglio cosa vuol dire cattiva nutrizione. Beh, garantire sicuramente all'animale un cibo che noi scegliamo come cibo più equilibrato, con un miglior rapporto per la sua specificità proprio. Sì, e quindi di fatto il fatto di poter... Invece mi sento sotto interrogazione. No, perché poi se mi nomini Nicolai parli sempre tu, almeno così parli anche tu, se no... No, no, parli, ma io... Non ti infili a parlare così. Beh, a volte infilarsi a parlare con te non è... Appunto, ti sto dando lo spazio, ma adesso mi dici che va bene, quindi va bene lo stesso. Donne. E quindi, anzi, in questo caso, visto che siamo in un ambiente animale, femmine. Cioè, tutto l'animalismo. Cioè, scusate, il femminismo che... Diciamo che questa è proprio anti... politically correct oggi come puntata. No, sei entrato in un cul-de-sac proprio, cioè ecco. Sei in un terreno sempre più scivoloso, okay, voglio vedere non... dove ti aggrapperai. No, basta, mi fermo qua. Quindi la cattiva nutrizione è, come sapete, l'essere umano può decidere cosa mangiare, quindi se essere carnivoro, erbivoro, vegetariano, fruttariano, vegano e quant'altro. Questo è un diritto di ogni essere umano ed è corretto così. Per il cane invece è differente, il cane, come sapete, o meglio se non sapete, lo diciamo noi, il cane è un carnivoro. Certo che sì, anche i rapaci, una piccola parentesi, anche i rapaci sono carnivori. Ci sono stati dei criminali, perché tali definisco, che hanno deciso di provare a far diventare il falco vegetariano. Beh, il falco ovviamente è morto. Strano, chissà come mai. Cioè, il punto qual è? Il punto è molto semplice. Dobbiamo considerare la natura dell'animale e considerarlo per quello che è. Il cane è un carnivoro, basta semplicemente aprire la bocca o fare una piccola piccolo studio sulla morfologia del cane stesso. Il cane è un predatore e ha bisogno di proteine, ha bisogno anche di carne, sicuramente anche di altri apporti, ma ha bisogno anche di carne. È vero anche che stando a contatto con lui è diventato anche un po' più onnivoro, se vogliamo, però comunque di fatto rimane comunque onnivoro. Certo che sì, l'aberrazione di alcune razze portate comunque all'estremo, che esistono cani che hanno delle intolleranze ad alcuni tipi di proteine. E questa è veramente una cosa antinaturale in qualche modo, no? Cioè va contro natura. Esatto, esatto. Bene, questa è la prima libertà e direi che su questo ci siamo, insomma, le persone tendenzialmente, i proprietari, dovrebbero garantire, diciamo che è proprio la base, senza la quale dici, vabbè, ascolta, prenditi magari un peluche e condividi con quello magari. Ecco. La seconda libertà, di avere un riparo e degli spazi idonei. Anche qua non è detto che il riparo, gli spazi idonei sia determinato dal fatto che allora, cavolo, vivo in un appartamento di 60 metri quadri, quindi non mi posso tenere ad esempio un pastore tedesco. Non è vero, inteso, è chiaro che se ho 4 alani e questi 4 alani vivono in 25 metri quadri, bah, è chiaro che non è possibile tenere 4 alani in 25 metri quadri, ovviamente. Allo stesso tempo, se riesco a dargli gli spazi idonei, quindi aree cani piuttosto che passeggiate montane, piuttosto che roba di questo tipo, ovviamente riusciamo già a garantire un discorso differente. Stesso discorso per il riparo, vuol dire dargli un riparo idoneo alla propria specie, cioè, quindi se abbiamo un rapace dovrà esserci un certo tipo di riparo, se abbiamo un cane un certo tipo di altro riparo, se abbiamo un gatto un altro tipo ancora, e garantirgli appunto il fatto che possa avere ristoro e tranquillità nel riparo che gli abbiamo creato, insomma, no? Tranquillità, sì, decisamente. Esatto. La terza libertà è la libertà dalle ferite e dal dolore. Questa è più inerente alla parte veterinaria, infatti me ne parlerà Morena, che ovviamente Morena è quasi veterinaria, quindi insomma, chi meglio di te, insomma, no? Ah, potrei farti un elenco di meglio di me, però... qualcosina. Voglio dire... sì, chiaramente se il nostro animale non sta bene, andare direttamente dal veterinario senza tergiversare, senza aspettare del tempo, senza dire ma sì, poi vediamo, guarirà da solo, sono bravi a guarirsi, autoguarirsi in qualche modo, hanno un sistema immunitario molto più importante rispetto al nostro, ok. No, il cane, esattamente come quando noi non stiamo bene andiamo dal dottore, il cane ha necessità di fare almeno un controllo all'anno dal veterinario. Questo proprio perché talvolta non abbiamo una visione così precisa di quelli che potrebbero essere le avvisaglie di sintomatologie, di problemi importanti alla base. Sicuramente il cane deve essere posto in una condizione in cui non abbia modo di farsi del male. Non dobbiamo fargli del male noi, ma questo mi sembra abbastanza scontato, quindi lo cito perché, come diceva sempre tuo papà, se fai un manuale e non è a prova di stupido, se non è a prova di stupido, lo stupido sei tu, quindi esatto. Io cito tutto. Il fatto sì, per quanto riguarda sia i cani che i rapaci, ma con qualsiasi tipo di animale noi scegliamo di interagire, dobbiamo garantirgli una salute perfetta. Sì, e quanto questa, più perfetto possibile. Questa ci tengo anche a sottolineare che questo tipo di libertà deve essere anche applicata in maniera importante dai veterinari stessi, il quale vi posso dire, e con un tono anche abbastanza polemico, sì, sinceramente io non ho grandissima stima dell'organo dei medici veterinari, fatto salvo di fortunatamente ottime eccezioni, tuttavia non ho una grandissima considerazione per il fatto che loro, come quei medici e gli esseri umani, hanno fatto il giuramento di Ippocrate, ovviamente, quindi dovrebbero lavorare e garantire appieno la salute dell'animale, che possa essere cane, nel frattempo sentite i cucciolati sotto, quindi che sia la salute del cane, che sia la salute di qualunque tipo di animale, e quindi pretendo, e questo lo pretendo proprio, che se ad esempio io chiamo un veterinario che sta facendo la sua attività non lavorativa, tuttavia nel sito o nell'indirizzo è reperibile, mi aspetto che quel veterinario corra immediatamente per la reperibilità, appunto, e che dia assistenza al mio animale o all'animale, appunto, per il quale abbiamo chiamato. E spesso abbiamo riscontrato negli anni che talvolta non è così, con rarissime eccezioni e piacevolissime eccezioni di individui che lo fanno veramente con un certo tipo di Ti commuove trovare la passione in uno che dovrebbe essere più una missione di vita che non un mestiere. Esatto. Nel senso, uno non dovrebbe puntare a fare il veterinario per i guadagni, anche perché sono da molti anni nel settore e posso garantirvi che, a meno di rare eccezioni, non ci sono questi guadagni stratosferici. Conosco molte persone che impiegano notte e giorno della loro vita per gli studi, per gli aggiornamenti, per seguire i casi. D'altra parte, ahimè, molto spesso quello con cui ti scontri è il fatto che sotto stanno facendo l'impossibile, quello con cui ti scontri normalmente è appunto il fatto che chiami un veterinario e ti dice: no, guarda, sono fuori struttura, dovrei farti pagare molto di più, chiama qualcun altro. E tu resti così, più che altro perché se sei un custode coscienzioso, avendo a cuore la salute del tuo animale, lo vedi che sta male, ti rendi conto, soprattutto se hai una base scientifica, ti rendi conto che è un caso d'urgenza, quindi non è che sto chiamando perché il cane ha il pelo un po' così, mi rendo conto che è una cosa che si può vedere tranquillamente lunedì. Se io sto chiamando perché ho il cane con, facciamo un esempio, un cucciolo morto in pancia, non può aspettare fino a lunedì, o meglio, potrebbe aspettare, ma il rischio è talmente elevato di una setticemia, il rischio è talmente elevato che è meglio intervenire subito. Oltremodo, il cane, se inizia a star male tutto quanto, continua a peggiorare sempre di più la sua situazione, soprattutto se ha altri cuccioli da seguire. Questo è solo un esempio. Esatto, quindi insomma, ecco, questo era per citarvi appunto il fatto che questa libertà deve essere garantita sì dai proprietari, meglio custodi come li chiamiamo noi, ma soprattutto anche dai veterinari. Soprattutto perché se uno sta male e telefoni in ospedale, ti dicono: no, guarda, sì, aspetta domani, sì, c'è effettivamente un sacco stai cardiaco, male, però magari domani riusciamo a... Anche perché se no ti devo far pagare un sacco se mi sta... Quindi vabbè. Voglio dire, magari ci sarebbe una giusta rivolta popolare. Questa, diciamo, che è sempre l'arroganza dell'essere umano, che si assume il diritto di avere la sua vita più importante di quella del resto degli animali, no? Comunque, detto questo, andiamo alla quarta libertà. La quarta libertà dice: libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche normali. Questo è un atteggiamento a questo tipo di libertà molto particolare, e su qua vi posso assicurare, su questo tipo di libertà molti custodi e, credetemi, molti professionisti o pseudotali che vogliono lavorare con gli animali cadono. Ecco, si è annoiato anche il nostro cucciolo in questo momento in braccio, Thor, uno dei nostri 5 cuccioli. Specie specifiche normali vuol dire che quell'animale ha necessità ovviamente di avere a che fare, stare con animali della propria specie, a patto che ovviamente quell'animale abbia necessità di stare con animali della propria specie. Vi faccio riferimento: il cane è un animale che vive in gruppi sociali. Se noi abbiamo un falco lanario, insomma, magari di stare con la propria specie non è che ce l'ha tanto per la quale, tra virgolette, a meno che non sia la femminuccia e l'altro il maschietto, e soprattutto magari in certi periodi. Ovviamente ci dobbiamo... tre rapaci più netta questa cosa, nel senso che ci sono dei rapaci sociali, chiamiamoli così, e altri che tendono di più a essere dei lupi solitari, anche se odio questa definizione, però rende bene l'idea. Quindi sicuramente il fatto di rispettare quella che è la loro specie, rispettare quella che è la loro natura, pone proprio le basi da un punto di vista biologico proprio. Loro amano stare in compagnia, i nostri cani amano stare in compagnia, sì, hanno proprio bisogno di stare in compagnia e confrontarsi soprattutto, perché dal confronto loro ce lo insegnano, noi spesso diciamo che sono i nostri maestri, in questo lo sono in modo assoluto, dal confronto viene sempre una crescita. Quindi con i cuccioli ce ne siamo accorti in un modo proprio palese, quanto loro abbiano proprio bisogno di confrontarsi sempre con cani differenti, perché dopo un po' quelli del branco iniziano a conoscere le dinamiche dell'uno e dell'altro all'interno dello stesso branco, mentre invece appena andiamo fuori, wow, un altro cane, fantastico, un altro mondo da scoprire. non solo, anche qua, per quello che dicevo, molti professionisti, è far fare delle attività idonee a seconda della tipologia, non solo dell'animale stesso, ma anche della razza. Vi faccio un esempio. Se noi facciamo una sessione di obedience, obedience è quando lo obbediscono dei comandi con dei soldatini, con un pastore tedesco, ok, ci siamo avvicinati a quella tipologia di attività. Se noi lo vogliamo fare a un akita americano, a un akita inu, oppure a un husky, oppure a un cane lupo cecoslovacco, o un beagle, gli stiamo facendo il danno più grosso che possiamo creare per quella tipologia di animale. Proprio in seguito a questo stiamo strutturando un lavoro specifico con un professionista che vive lontano da noi in questo momento, che è in Olanda, il quale lui è un biologo evoluzionista, fantastico, sì, e ha la passione per l'educazione cinofila, quindi stiamo lavorando assieme, perché lui è chiaramente molto accademico, noi siamo più pratici, se vogliamo, e quindi stiamo cercando di capire come lavorare con ogni singolo cane, ogni singolo proprietario, a seconda dell'evoluzione che ha subito quel determinato tipo di razza stessa, del perché è stato selezionato, esatto, in un determinato modo e come è arrivato fino a noi. Se immaginate rispetto al lavoro che solitamente viene fatto, beh, chiaramente pone proprio, è sempre un modo di vedere il mondo con altri occhi. Diciamo che, come sapete, io amo la polemica, e quindi vi dirò una cosa polemica e sfido chiunque a dirmi il contrario. Il classico educatore che fa il lavoro col vostro chihuahua esattamente uguale a quello che fa col vostro alano, o ancora peggio in senso la tipologia di attitudine con un cane lupo cecoslovacco, è un cretino. Quindi di fatto, e sfido a dirmi il contrario, quindi se ascolta qualche educatore, sente questo mio intervento, sfido proprio a scrivermi o a telefonarmi, i miei numeri li trovate ovunque, e a confrontarsi su questo discorso qua, che lo smonto nel giro di 3 secondi. Detto questo, sai che mi piace sempre la polemica ogni tanto, quindi ok, questa è la quarta libertà. La quinta libertà è la libertà. Il confronto viene sempre la crescita. Sì, ma il confronto ci deve essere tra due persone che partono da una conoscenza uguale, ovviamente, no? Se io mi metto a confronto con un pianista esperto, che cosa gli posso dire? No, beh, certo, posso, ecco, avere anche l'umiltà di imparare, di dire ok, visto, esatto, che fai questa cosa diversa dalla mia, io imparo, perché, esatto, questo non è troppo nella natura umana. Soprattutto in quella italiana, devo dire, soprattutto gli educatori italiani. Detto questo, abbiamo citato, non citiamo il nome perché farebbe pena, ma insomma, un confronto che abbiamo avuto con un educatore la scorsa settimana, in cui, non riuscendo più a contrastare quello che dicevo, ma attenzione a livello tecnico, semplicemente mi ha cacciato fuori da un gruppo di un social, e quindi ha detto basta, non so più come comportarmi, ti caccio fuori. E stranamente non era stato polemico. Era stato molto, molto semplicemente molto tecnico, molto accademico in questo caso, sì. E non era stato per nulla polemico, anzi, cercava di portare, di dare come contributo, essendo comunque un gruppo che parlava di cani, quindi di cinofilia, cercava di portare il suo contributo semplicemente, ed è stato cacciato miseramente perché minava l'autorità o l'autorevolezza o vabbè, diciamo l'ego, della lunghezza del suo ego dell'amministratore di questo gruppo. Quindi sì, è stato notevole, perché ti fa tenere un pochettino il polso di com'è la situazione. Comunque, detto questo, finiamo con la quinta libertà, che è libertà dalla paura e dal disagio. Chiaramente gli animali hanno il diritto di essere protetti da eventi che stimoli, questa è proprio la dicitura, ve lo sto leggendo, di essere protetti da eventi o stimoli che provocano emozioni negative. La paura e lo stress ripetuti sono incompatibili con la salute. Vi faccio un esempio riguardo a questo, visto che stiamo uscendo dal periodo natalizio, di Capodanno. Capodanno, come sapete, molto spesso ci sono ordinanze su ordinanze che vietano i botti di Capodanno un po' in tutte le grandi città. Ma vengono mai fatti rispettare? Ma non solo non vengono fatti rispettare, io personalmente lo accetto nel discorso naturale, cioè vuol dire, da quando insomma siamo assieme, so perfettamente che se scoppia un petardo di notte in un bosco, molto probabilmente un paio di civette ci rimettono la pelle, insomma. Le penne. Ecco, le penne anche. Per quello che riguarda cani e gatti, no, non l'accetto tantissimo, ma vi spiego anche il motivo. Sì, anch'io non apprezzo il fatto che possano esserci appunto botti eccetera eccetera. D'altra parte, io personalmente da bambino li facevo. Io no, mai. Io sì. Ma che brutta persona. Da bambino sì. Allo stesso tempo, visto che è tra l'altro un'ordinanza che non si può, diciamo, far rispettare, sarebbe è quasi impossibile far rispettare un'ordinanza di questo tipo. Tu proprietario, tu custode che hai il cane in adozione, e mi dispiace, ma tu devi correre ai ripari. Non è la città che deve correre ai ripari. La città può anche ricorrere ai ripari, ma sei tu che devi ricorrere ai ripari. Noi stessi Capodanno l'abbiamo passato a casa, e nel momento che sapevamo che ormai c'era diciamo la mezzanotte nei pressi, abbiamo preso tutti i nostri cani, gatti, rapaci, e li abbiamo portati in casa fino al mattino dopo. In più, in casa abbiamo diciamo attutito il botto di Capodanno con televisione, radio o cose di questo tipo. È chiaro che non siamo andati a trastullarci in qualche discoteca o in qualche locale lasciando i nostri animali in casa, quindi senza avere da soli a gestirsi la terza guerra mondiale, sì, di botti. Esatto. Mi spiace, caro proprietario, caro custode che mi stai ascoltando, se hai un cane che ha paura dei botti, o te ne vai in montagna dove non ci sono botti, oppure, mi spiace, te ne stai a casetta tua, eviti di fare vita mondana, e te ne stai a casetta tua, magari con amici, con parenti, quello che desideri, e col tuo animale. Col tuo animale te lo custodisci fino alla fine. Quindi apponi tutto ciò che puoi apporre per garantire la sua salute. Questo riguarda chiaramente la quinta libertà, quindi libertà dalla paura e dal disagio. È chiaro che poi nel frattempo si può fare un lavoro anche per migliorare questo aspetto, no? Certo che sì, sicuramente si può sempre migliorare. Diciamo che il primo passo è proprio il fatto di garantirgli di essere lontani da fonti comunque di stress, che possono essere appunto, come in questo caso, rumori violenti, che possono essere comunque cose che li fanno spaventare, perché in natura uno scoppio non è una cosa che comunque ti fa star tranquillo, grazie al cielo. Non solo, se tu hai idea di essere, noi siamo viaggiatori, ci piace viaggiare, allo stesso tempo sì, può succedere che magari i nostri animali non vengano sempre con noi per lo semplice fatto, perché se per una settimana, due settimane vado negli Stati Uniti, in Asia, negli Emirati Arabi, eccetera, è chiaro che non mi portino dietro il cane, perché dovrebbe farsi il viaggio in aereo, il fuso orario, eccetera. È chiaro che se vado per mesi, mese e mezzo, due mesi, ma è chiaro che me lo porto. Se tu sei un viaggiatore invece che non ha desiderio di portarsi l'animale con sé, ma anche qua evita di prendere animali. Noi conosciamo delle persone che viaggiano spesso, i loro cani se ne stanno stanziali all'interno di un giardino, e ovviamente questo provoca dolore, paura e disagio, perché nel momento in cui vengono preparate le valigie, questi cani vanno in totale ansia e stanno veramente male. Ma anche questo... perché cosa puoi fare se non condividere le esperienze con le persone che ami e con gli individui che ami? Certo, a seconda ovviamente, come potrei fare un esempio, mia mamma ha una malattia per la quale la pressione dell'aereo potrebbe insomma non garantire la sua sopravvivenza. Beh, è chiaro che non è una persona con cui condividerei dei viaggi intorno al mondo per un semplice fatto, perché ovviamente potrebbe star male, a meno che uno decida di farlo in nave, per dirvi. Però il punto qual è? Il punto è che ovvio... Ho temuto quando hai detto a meno che... No. A meno che uno non lo faccia apposta. No, faccia apposta. Povera. No, però il punto è... faccio le cose in base anche a quello che ho deciso e gli individui con cui ho deciso di convivere. Quindi no, mi spiace, se vuoi viaggiare, vuoi essere un viaggiatore, non si vuole assumere l'onere di portarsi dietro i propri animali, mi dispiace, gli animali non li prendi. Oppure, no, ma io a Capodanno devo andare a fare il figo in giro e me ne sbatto del mio cane, del mio gatto, eccetera, eccetera, che se ne sta a casa, mi dispiace, lascia perdere, nel senso... Sì, lo puoi dare a qualcun altro, però dai, non prendiamoci in giro. Se tu hai un figlio, cosa fai? Lo dai a qualcun altro perché non hai voglia di stare con lui? Che si gestisca il suo momento di paura. Ma quindi, insomma, mi sembra una cosa un po' folle. Oggi siamo stati abbastanza politici. Sì. Beh, le 5 libertà fatte. Come fare, però, nel momento in cui io ho il cane che ha paura di botti o del temporale, ad esempio? Ma sicuramente si prova a strutturare un lavoro specifico, molto tecnico, di desensibilizzazione sistematica o... controcondizionamento, ma qui direi più desensibilizzazione, per desensibilizzarlo quindi all'evento, all'accadimento. Vuol dire, pian piano io faccio sentire questo rumore specifico, sempre a intensità maggiore, quindi magari lo scaricate da internet il rumore specifico, lo sparo, eccetera eccetera, si mette un'intensità molto bassa, via via crescendo man mano che il cane inizia ad abituarsi. È un procedimento lungo da fare, molto difficile, molto tecnico in questo caso, quindi vi consiglio e vi suggerisco di farvi seguire comunque da un professionista, ma è un professionista serio. Io spesso vedo persone che accarezzano il cane e dicono: no, Cicino, sei tranquillo, chiaro, vieni qua, non ti succede niente, vieni qua dalla mamma che ti coccola o cose del genere. Ma diciamo che c'è una bella differenza tra stare accanto al cane oppure rinforzargli la sua paura, sono cose differenti. Quindi certo che io sto accanto al mio cane qualora abbia un timore o una paura, tuttavia non lo compatisco rinforzando quella paura stessa. Nel momento che bravo tatino, ti accarezzo, è come dire al cane: bravo, fai bene ad aver paura, anzi se vuoi averne un po' di più meglio. Quindi questo è da evitare, ma qualunque tipo di situazione paurosa è bene evitare di accarezzare il cane o comunque dargli un rinforzo di questo tipo, semplicemente stargli accanto, cioè io ti sono accanto ovviamente e cerchiamo di superare la paura, fargliela affrontare, esattamente quello che consiglierei a qualsiasi, e mai scappare, a qualsiasi individuo. Non, esatto, non bloccarsi di fronte a una paura, non far finta che non esista, perché se c'è quella paura c'è e è lì a dirci qualcosa, ma affrontiamola insieme, magari mano nella mano o zampa nella mano. Zampa nella mano mi sarebbe venuto, mi sarei impastrocchiato, zampa nell'artiglio, non dico così. Vabbè, zampa nell'artiglio non sarebbe tanto bene. No, è orribile come scena, zampa nell'artiglio. Va bene, allora dunque, quindi noi direi che siamo ormai al termine di questa puntata, abbiamo citato le 5 libertà animali, abbiamo ripreso in maniera scoppiettante, diciamo, l'inizio del tema. Sì, l'inizio del 2017. Detto questo, non so se tagliarla questa, la lasciamo anche chi ci ascolta. Abbiamo si rende lasciato conto, cose peggiori. Si rende, sì, infatti, si rende conto delle cose. E, no, nel senso buono. E a questo punto direi che ci possiamo salutare. Ci ritroviamo la prossima settimana col prossimo appuntamento. Che chiaro dici? Che sì. Va bene. Allora, un buon fine settimana a tutti, un buon inizio settimana e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima. E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!